Buono, tu non m'ingani più, tu non m'ingani più. L'amore traditore, tu non m'ingani più. L'amore traditore, amore traditore, tu non m'inganni, tu non m'inganni, tu non m'inganni più, tu non m'inganni, tu non m'inganni, tu non m'inganni più. Amore traditore, tu non m'inganni più, non m'inganni, tu non m'inganni, tu non m'inganni, m'inganni più, tu non m'inganni più, tu non m'inganni più, tu non m'inganni, tu non m'inganni. Non m'inganni più. Non voglio più che te. Non m'inganni più. non mi inganni più, tu non mi inganni più, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni più.